Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Ieri sera abbiamo parlato di autostrade del sole, allora oggi continuiamo sullo stesso filone, cominciamo così. Allora, dal sole al vento, chissà quanti di voi ascoltatori ci sono arrivati e hanno riconosciuto in queste note non la sigla di Porta a Porta, bensì la colonna sonora di Via col Vento, grande colossal di fine anni 30. Ebbene, questo titolo, Via col Vento, è piaciuto molto anche a 5 studenti del Master in Business Administration del Politecnico di Milano, Master 2007-2010. Parliamo di 5 trentenni con alle spalle anche delle esperienze di consulenza, i quali hanno dato questo nome, Via col Vento, a un progetto per produrre questa volta energia eolica lungo le infrastrutture viarie, quindi principalmente autostrade e linee ferroviarie. Dovete sapere che tutto è cominciato l'anno scorso, quindi si è svolto molto velocemente, a partire da un'idea per la tesi di master, e oggi già c'è una neonata piccola società di servizi che si chiama Eolidea, e in linea con noi c'è la portavoce di Eolidea, Alessia Di Bartolomeo. Buonasera Di Bartolomeo. Buonasera, buonasera a lei Maurizio. Allora, ci aiuti un po' a capire di che cosa stiamo parlando, perché è una buona idea secondo voi mettere delle pale eoliche vicino alle autostrade? Allora, sostanzialmente oggi studi accreditati del settore hanno dimostrato come in prossimità di alcuni supporti che oggi già esistono sulle nostre strutture stradali subisce un fattore di maggiorazione pari al 10%, quindi sostanzialmente parliamo di potenziali inespressi che ad oggi non vengono sfruttati. Ecco, quando parliamo di supporti, a che cosa vi riferite? Esatto, pensiamo ad esempio a pannelli di segnaletica stradale, pali dell'illuminazione o anche gallerie. Le gallerie soprattutto possono sfruttare quello che viene denominato nel settore come effetto pistone, ovvero questa spinta di aria generata dal traffico monodirezionale degli autoveicoli, che imprime un'accelerazione al vento all'interno di queste strutture, che chiaramente può essere utilizzata da queste giranti eoliche. Quindi stiamo parlando proprio di sfruttare, oltre al vento ambientale che deve esserci quando si va a mettere una pala eolica, una specie di plus prodotto proprio dallo spostamento dei veicoli lungo le vie ferroviarie o lungo le autostrade, e il vantaggio del 10%, quindi questo dal punto di vista energetico. Consideri anche che chiaramente la morfologia di queste giranti mini eoliche che viene adottata chiaramente varia a seconda del tipo di supporto che viene sfruttato. Abbiamo esempi virtuosi negli Stati Uniti, in Cina, ma anche nella vicina Francia, che hanno sfruttato giranti ad asse verticale, per esempio lungo i pali dell'illuminazione, proprio per sfruttare il vento, il vortice generato attorno a questi supporti verticali. E quindi è come se dovessimo immaginarci un po' queste giranti a forma di frullatore, come dire, che vengono attirate da questa corrente. Un po' come la frusta, diciamo proprio la frusta con cui si monta la chiara dell'uovo, messa in verticale che gira. Ovviamente è una roba con un design un pochettino più aerodinamico, però è anche più bello, ma voglio dire, stiamo parlando quindi anche di oggetti abbastanza piccoli, di qualche metro, non parliamo delle grandi pale eoliche. Assolutamente, infatti dobbiamo immaginarle un po' come i grandi impianti offshore, ma decisamente in miniatura, che innanzitutto devono essere leggere, perché dobbiamo immaginarle montate su dei supporti che non sono... Che sono piccoli, insomma, certo. Esattamente. Devono essere chiaramente efficienti, primo requisito, perché chiaramente devono garantire un certo numero di ore equivalenti l'anno, e ovviamente e non devono essere rumorose. Ricordiamoci che uno dei vantaggi di applicazioni di questo tipo è che producono un impatto ambientale molto basso. Sì, perché che sono piccole. Assolutamente, ma poi sono ovviamente installate in luoghi che sono, come si dice nel settore, già ambientalmente compromessi. Questo è uno degli aspetti più importanti. C'è, diciamo, anche una certa refrattarietà nei confronti delle rinnovabili, perché comunque il paesaggio viene intaccato, ovviamente. Ora, dirà delle ragioni e dei torti che poi variano caso per caso, qui si va a intervenire su delle zone che sono fortemente compromesse. Quindi, per riassumere, abbiamo più vento in queste zone, abbiamo un minor impatto ambientale rispetto a fare queste stesse opere altrove, abbiamo anche meno costi però, se ho capito bene, perché questi supporti, per esempio quelli del tutor, sono già lì e questo non è una voce secondaria nella produzione di energia eolica oggi, questa delle, diciamo, superfici e infrastrutture di sostegno. Assolutamente, è una componente questa che già diciamo va a integrare un costo di produzione del kilowattora molto vicino alla grid parity, cioè sì, molto vicino alla ai costi di produzione che oggi invece caratterizzano l'energia derivanti da combustibili fossili. Diciamo che a valle di alle analisi che inevitabilmente abbiamo condotto nella costituzione della nostra società, un player come può essere un gestore di un'infrastruttura viaria può addirittura beneficiare da queste applicazioni arrivando a una copertura dei propri fabbisogni pari a un 7-8%. Pensiamo ai circuiti che già caratterizzano le nostre autostrade o le nostre infrastrutture viarie in generale, come possono essere per esempio telecamere, stazioni meteorologiche, pali dell'illuminazione. Sono tutti circuiti che possono essere alimentati da questi impianti di piccola taglia che vanno da 1, 2 a 5 kilowatt. Grazie Di Bartolomeo, buon lavoro allora, buona fortuna per la vostra iniziativa. Grazie mille, arrivederci. È tutto anche per stasera, scriveteci a mr.kilowatt@radio24.it, l'appuntamento per domani, andiamo alla ricerca di calore sottoterra in 4 regioni del sud Italia. Buona serata.